a poco un dream scoppia ogni minuto un piede. Perché passano forte scongiugato lieto. A poco un dream che sazia di giocare una, a poco un dream nessuna. Shoot.